vado a prepararvi un posto. Salgo al Padre mio e Padre vostro, salgo a Dio, Padre, a prepararvi un posto. Voi siete venuti qui nella casa di Bosco e vi eravate prenotati. Che significa? Avevate telefonato per dire: tenetemi una stanza, prenoto una stanza, preparatemi una stanza. E lui dice ai suoi: vado a prepararvi una stanza. Dove? Dal Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. La seconda casa. Chi possiede due case, una in città e una in montagna o in campagna o sul lago, oh, se ne vanta lui a due case. Tutti dobbiamo vantarci che abbiamo due case. Una qui, dove la dimora non è stabile. Una oltre le nubi del cielo, oltre i cieli, oltre ciò che è sensibile, raggiungibile coi nostri sensi, con l'intelligenza, la più acuta intelligenza, oltre la seconda casa è Dio stesso. Ma io sono un nulla, uno zero. Mettiti accanto all'uno e tu possederai l'uno. Non sarai più zero, ma 10, 100, 1000, 1 milione, 1 miliardo. La casa di Dio diventerà casa nostra. Lo zero possederà l'uno. Non vi dispiace qualche volta sentirvi come zeri? Ho detto prima, un certo momento verrà in cui sentiremo di essere uno zero, azzerati. Non stiamo più in piedi. Non siamo più capaci di borbottare una parola per farci capire. Zero, ma uno zero accanto all'uno. Stiamo per raggiungerlo quell'uno e fare tutt'uno con lui. Un tutt'uno con l'uno. Lo zero deve fare un tutt'uno con l'uno. Siamo stati creati per quell'uno. Ecco la nostra seconda casa. L'uno, immersi in Dio, che supera tutte le dimensioni, tutti i calcoli, persino quello infinitesimale. Ecco la seconda nostra casa. Chi è venuto ad avvertirci? Ma sentite che la ragione, la buona ragione, il buon senso e tanti altri indizi ci fanno capire, se vogliamo, che noi non siamo nati per finire in una fossa. Oltre queste luci che si accendono in noi quando ragioniamo bene, c'è una luce stupenda che sorpassa all'infinito i nostri indizi e buoni ragionamenti. Lui ha detto: sono io la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, per prepararvi un posto. Siamo certi che la seconda nostra casa è Dio stesso, perché Dio stesso, Gesù di Nazaret, Dio stesso, è venuto ad abitare in questa prima casa per garantirci che noi avevamo la seconda casa. Notate bene, lui dall'eternità è sempre Dio, abita la casa della trascendenza assoluta ed è venuto qui per abitare nella sua seconda casa. Nazaret, Betlemme, Gerusalemme, il Calvario, la Palestina, la sua seconda casa. per dirci che anche noi ne abbiamo due case, come lui, Dio e uomo, la sua casa, la divinità, la sua trascendenza infinita e la sua creaturalità umana, un corpo come il nostro corpo, la sua seconda casa. Non ha abbandonato la prima prendendo possesso di questa seconda casa. L'avete sentito sul catechismo? Il Figlio di Dio, facendosi uomo, ha cessato di essere la trascendenza, di essere Dio? No! Non ha lasciato la trascendenza. La natura divina è incorruttibile, infinita. Facendosi uomo, è rimasto vero Dio ed eccolo anche vero uomo. Due habitat. Il primo habitat per lui, l'eternità. Secondo habitat, la terra nostra, il suo corpo, come il nostro. Ed è venuto a dirci che anche noi abbiamo due case. Una qui, dove ci sono anche triboli e spine, come le ha trovate lui. Ma ce n'è un'altra, che è la sua stessa casa.